sparavamo dalle montagne a nazifascisti e repubblichi. Ci nascondemmo nelle campagne, uscimmo al sole dell'avvenir. Dopo l'aprile la festa è nostra, si balla e canta la libertà. Vent'anni di mascelle in mostra, vent'anni di bestialità. 40 milioni di baionette, leggi speciali l'Etiopia. Ma gli italiani cambiano in fretta, tanti fascisti, poi partigiani. Abbasseremo il tappadoglio, appendiamo il duce coi piedi. Ma arrivano prima gli americani, più non possiamo menare le mani. A consegnare tutte le armi, a ritornare sotto padron. Son finiti tutti gli allarmi, il sole nostro è già in pensione. Gli ex fascisti torturatori, repubblichini sono già fuori. Tornano liberi per le strade, per le piazze, per le contrade. State calmi, non è il momento. Dice il partito molto impegnato, di qualche poltrona è già contento. Con il borghese ha patteggiato. Abbasseremo il trabadoglio, appendiamo il duce coi piedi. Ma arrivano prima gli americani, più non possiamo menare le mani. Ci organizziamo tutto da soli, abbiamo le liste degli assassini. Siamo comunisti, non siamo cetrioli, facciamo giustizia, basta inchin. Con la volante, con le bandiere, le nostre armi e la volontà, usciamo fuori tutte le sere, puliamo dai fasci la città. Siamo operai, siamo comunisti, rossa volante la vincerà. Pagherete tutto, vecchi fascisti, il popolo in armi trionferà. Abbasseremo il trabadoglio, appendiamo il duce coi piedi. Ma arrivano prima gli americani, più non possiamo menare le mani. A Genova, all'Ambra, ma pure a Sesto, dalla fabbrica vengono gli aiuti. La notte il ferro gira più lesto, la notte i fasci restano muti. La delazione si fa più sottile, dentro il partito qualcuno parla. Vengono le guardie, non è più aprile, almeno la pelle tocca salvarla. Chi fa in tempo scappa all'Oriente, chi è arrestato finisce in prigion. Della volante non resta più niente, solo l'idea che diviene azione. E la volante intrepida e rossa non ha paura, lei fende l'aria. In braccio all'arma crea sommossa, per la giustizia proletaria. E la volante intrepida e rossa non ha paura, lei fende l'aria. In braccio all'arma crea sommossa, per la giustizia proletaria.